Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e 12 minuti primi. E quindi tornano le trasmissioni in diretta su Radio Onda Rossa dopo l'appuntamento con Mezzedes. E questo è l'appuntamento del martedì sera dalle ore 21 alle ore 22:30 con Do It Yourself Invasion. Radio Onda Rossa, ascoltabile anche attraverso la diretta streaming dal sito di Radio Onda Rossa, raggiungibile al www.ondarossa.info. Radio autogestita ed autofinanziata dal 1977 e che quindi quest'anno è entrata nel 40° anno di attività. Lo ricordiamo spesso da questi microfoni, è sempre più difficile arrivare a fine mese, pagare tutte le bollette e quindi portare avanti il lavoro che fa questa radio da 40 anni. E quindi invitiamo tutte e tutti all'ascolto a contribuire alla vita di Radio Onda Rossa, sostenendo direttamente la radio. Potete farlo attraverso il sito della radio e quindi andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina con tutte le modalità per poter sostenere la radio. Oppure potete passare tutti i giorni diciamo in orario diurno o seriale, era bello. No vabbè, poi più tardi approfondiremo la questione dislessia, eh. Sì, insomma, potete passare in orario diurno per portarci un libero contributo qui direttamente negli studi di Radio Onda Rossa, dove potrete trovare la nuova Scarceranda 2017 E quindi agenda più quaderno a 12 euro. Vi ricordiamo che per ogni agenda acquistata un'altra sarà inviata. A chi si trova in condizioni di limitata libertà. Sempre negli studi di Radio Onda Rossa potrete trovare tutte le autoproduzioni del nostro banchetto. Oppure potete contribuire attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Un'altra modalità per sostenere direttamente Radio Onda Rossa è quella che forse preferiamo di più. Che è quella di partecipare alle iniziative di finanziamento che organizziamo. Due di queste sono questa settimana. Eh sì, perché una è questo sabato 4 marzo, dalle ore 19. In collaborazione con il collettivo Torpedos e il CSOA ex SNIA. Dalle ore 19 un concerto con un botto di gruppi. E quindi questa sera proporremo molti ascolti dedicati appunto a questa iniziativa. Dicevamo, prima dei concerti. Ci sarà una cena, sempre a finanziamento della radio. E quindi non mancate. L'altra iniziativa invece è per domenica 5 marzo, alle ore 19 al Cinema Aquila, in via L'Aquila 66. E quindi verso lo sciopero dell'8 marzo proietteremo il film Rosa Luxemburg di Margaret von Trotta, appunto al Cinema Aquila. E quindi dalle ore 19 con una presentazione e breve dibattito, e poi la proiezione che inizierà alle 20:30. Quindi come anticipato ad inizio trasmissione andremo a trasmettere un po' di selezioni dedicate insomma all'iniziativa di questo sabato, la CSOA ex SNIA. E loro sono i fan da Roma. Gruppo formato nel lontano 1981. ed ancora attivi a calcare i palchi in giro per l'Italia. Questa ce la riascoltiamo da capo. Loro sono i Fan e questa è la loro Come Voi. Thank you. questo era il trittico dedicato ai fan. Oh, il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 1750. Mentre per scrivere al sottoscritto, per segnalarci le vostre autoproduzioni, quindi per qualsiasi collaborazione, per segnalarci iniziative, l'indirizzo email è fantasma@ondarossa.info. E sul palco dell'ex SNIA questo sabato ci saranno anche i The Unborn. Gruppo di street punk, oi, hard rock. Trasformati in vendetta. No, dai, dai, dai. Che presenterà nella serata di sabato il loro primo 7 pollici. Dal titolo Obey. E quindi un 7 pollici con due tracce sul lato, quindi stampato su un solo lato. Edizione limitata a 300 copie in vinile rosso sangue. L'abbiamo presentato in anteprima proprio su queste frequenze. Loro sono di Amborna e questa è la loro La città verrà distrutta all'alba. Serve stabilire la potenza dell'arma che occorrerebbe per poter distruggere la città. Pronti? Via liberi! Decoliamo! Siamo noi, capo e mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, E siamo arrivati al turno degli assedio. Sei preso per il culo! Bende che si divide tra Latouche e Serpentara. Per 20 anni mi ha lasciato. Attivi dal 2008. Lavorare solo perché loro sono buoni. Devo dire che in versione live si sono ben appesantiti. Qui ce li ascoltiamo dallo split con i Cruel Revenge. E questa è la terza traccia, Lavoro salariato da capo. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Che ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali, per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. We'll be right back. E visto che trillano, questa la rimettiamo da capo. Loro sono i Tullamor da Pavia. Passiamo tre tracce dall'ultimo lavoro uscito nel 2016 dal titolo Palude. E questa è la loro Ira. Sentito dire tutti i placati, tutti nella stessa direzione. Fascisti e poi. E queste erano due tracce estratte appunto dall'ultimo lavoro dei Tullamore, Palude. Ne passiamo un terzo estratto da un lavoro del 2013. Queen featuring con Dani dei Melodie Distorte. Loro sono sempre i Tullamore e questa è la loro Rabbia e Cemento. Finalmente sai con chi viaggiare. Finalmente sai come campare. Finalmente un senso alla tua vita. E questa birra non finisce mai. E sempre questo sabato sul palco dell'ex Snia Viscosa, a sostegno di Radio Onda Rossa, siamo felici di insomma vedere il ritorno nella capitale degli Affluente. Sono passati 3-4 anni dall'ultima volta. Quando vennero in quel dell'Ateneo Squat. Affluente, fondamentalismo hardcore. Da Ascoli Piceno, attivi dal 1992. Qui ce l'ascoltiamo dal lavoro del 1993 e questa è la seconda traccia, Società Affluente da capo. Tutti quello che ne fanno parire. Desiderio, ci prendo con gli occhi e non avere. Perché non sono scelta di provare. siamo condannati al desiderio, al delusione, le poste, agente, chiavi, delante, asilo, cantante, delusione. Traccia che trovate nel CD bonus. Del disco Il sogno della merce, uscito nel 2013, e che include appunto nel CD bonus tutte le tracce uscite su vinile degli Affluente. Uscito in coproduzione tra El Nation, Rebound Action e Amphibio Records. Ci ascoltiamo una traccia appunto dal sogno della mai. Della, no, no, vabbè, questa. Rivoluzione! No, no. Va bene, la dico questa. No, ma mi hanno dato del. Luca Giurato del punk hardcore. Ok. Dislessia, portami via. Allora, appunto, questa è la traccia di apertura del sogno della merce. Loro sono sempre gli Affluente, e questa è Lontano da me. Eh sì. Già li vedo i bandieroni pirata sventolare durante gli affluenti. Ci siamo capiti, eh? E a chiudere la serata ci saranno i Bull Brigade da Torino, attivi loro dal 2006. Tra l'altro sappiamo che due membri dei Bull Brigade avevano trasmissioni musicali a Radio Blackout, quindi siamo ben felici. Di averle sostegno di Radio Onda Rossa. Qui ce le ascoltiamo dall'ultimo lavoro che è Vita e Libertà. E questa è la loro Troppo Distanti. A noi, a noi, a noi. attorno al momento in cui c'era una scena e non soltanto le rovine. I nostri sguardi in mezzo ai piccoli bui e i nostri cuori oltre ogni limite e confine. Non queste mura di leggende realtà oltre le quali nulla resta di noi. Cosa racconti al tuo cuore quando il mio nome pronunciare non puoi? E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra la nebbia finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi. Parli poco con tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? Questo silenzio vuoto e senza un perché è un labirinto da cui non riesco a fuggire. Come la rabbia che ci ha fatto sfide, che spinge i cuori costringendoci ad ardire. Come quel disco che ti trasporta via, che è sempre il suono della nostra città, che tiene sotto scacco l'anima mia, che salvarla mai potrà. E quando il grande cielo di questa città è la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra la nebbia finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi. Parli poco con tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? Questa era un'altra traccia. Estratta dall'ultimo lavoro dei Bull Brigade. Dal titolo Perduto amore. Mentre facciamo un balzo indietro nel tempo e dal lavoro uscito nel 2008 sempre per i Bull Brigade ci ascoltiamo la title track. Figo, se dici così, no? E questa è Strade smarrite. Capisce più la strada presa dove finirà, quale destino in serbo c'è per lui, che cazzo ancora gli succederà. Ha visto amici scivolare via, ha fatto cose immaginate mai, certezze diventare una bugia, ha visto gioia diventare guai. E invece un giorno poi si accorge che ha un'altra faccia questa verità, conta gli amici ancora intorno a lui, spesso la vita quanti scherzi fa. E la vendetta inizierà così, ad avvitare tre pensieri suoi, mentre ascolta l'unico CD che bastonava il cuore degli eroi. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versata sa che lascerà segni che il tempo non cancellerà. Dietro di lui solo la nebbia, e notte solo sarà dentro il freddo che fa. L'ultimo treno se n'è andato già, come in una vecchia fotografia, rimane solo con la sua città. E allora pensa a quei momenti in cui bastava la presenza della crew, sogna gli amici tutti intorno a lui, e cade al braccio della sua tribù. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versata sa che lascerà segni che il tempo non cancellerà mai più. Mai più, mai più, mai più. E giustamente ci arrivano richieste. Qui dal primo EP dei Nabat scenderemo nelle strade da capo. Yeah. andiamo a cambiare registro. Silenzio di queste notti insonni, per nulla e nei rimpianti, cercare di sogni. Dopo questa lunga selezione dedicata al concerto di autofinanziamento che ci sarà questo sabato al CSOA ex SNIA Viscosa, in collaborazione appunto con SNIA e Torpedos, e quindi dalle ore 19 rinnoviamo l'invito a partecipare vabbè, loro ogni tanto li passiamo da queste parti, ma raramente proprio, vabbè, insomma, siamo in trepidante attesa per il nuovo disco dei Nofu. E siccome stanno facendo le cose per benino, hanno fatto uscire anche un video per la traccia che stiamo ascoltando in sottofondo. La riascoltiamo da capo e questo è il loro disposto soggetto di prossima uscita. bomba bomba. Mi piace particolarmente questo basso coatto alla Steve Harris. Credo che ci faranno aspettare ancora un po' per la presentazione del disco. Mi pare che avverrà a maggio. Sì, se la tirano un po', Mentre loro sono gli Onrio da Roma. Usciti con il primo demo nel 2012. E quindi con... Daniel, Alessio e Giulio. E quindi che escono con questo EP dal titolo Muto. Quindi dopo un anno di pausa dal precedente EP. Noi vi passiamo in anteprima appunto una traccia da quest'ultimo lavoro degli Onrio. E questa è la loro Oni. Quindi questi erano gli Onrio, usciti da poco con questo EP dal titolo Muto. E uscirà per la Everlasting Spew. Minuti primi. Andiamo a chiudere così la puntata di questa sera, non rinnovandovi prima. Sai cose che non esistono più, no? Il mondo è cambiato. Cioè, senza prima rinnovarvi l'invito per l'iniziativa di questo sabato. Quindi un saluto ad ascoltatori ed ascoltatrici per la pazienza e l'attenzione. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della libertà personale. E a loro dedichiamo dallo split su 10 pollici tra Contrasto e Kalashnikov. Loro sono in Contrasto. Con la loro 100 fiori sono sbocciati. Ci vediamo sabato, invece ci riascoltiamo martedì prossimo. Dai!